Con Iris Martin Peralta di Exit Media Distribuzione per parlare del film L'educazione direi di Santiago Esteves al cinema da giovedì 4 aprile 2019. Iris, ben trovata. Salve a tutti. Lo raccontiamo brevemente? L'educazione del re è l'opera prima del regista argentino Santiago Esteves. È una trama thriller che inizia in un modo abbastanza classico. Ci sono i ragazzi a Mendoza, Argentina, cioè ai piedi delle Ande. Iniziano a preparare una rapina. Questa rapina, finisce non tanto bene. E uno dei ragazzi, appunto Reinaldo, chiamato Rey, riesce a scappare. Lui, fuggendo, casca, sui tetti, ca sulla serra di un cortile di una casa. La persona, il proprietario di questa casa, che è una guardia giurata in pensione, decide di proteggerlo, di non denunciarlo alla polizia e invece di, come punizione per l'averla rotto, li fa riparare la serra, e da lì inizia, parte il film con una trama, molto molto bella, con una storia di due persone che non si conoscono e pian piano tra loro nascerà un rapporto abbastanza particolare. E parallelamente a questa trama, più relazionale, drammatica, c'è tutta la trama che riguarda il thriller puro, perché chiaramente questi soldi sono da qualche parte, e bisogna trovarli. Quindi chi li ha persi a chi li hanno rubato si mette a cercarli. Oh, sullo sfondo un inquietante intreccio tra criminalità e forze dell'ordine. Eh sì, questo è anche uno degli spunti, del thriller classico, no? Che sempre c'è la polizia, che non sappiamo se è polizia, se è corrotta, se non è corrotta. Quindi questo, doppio filo della legge è presente anche in questo film. E, per quello che riguarda il regista, Santiago Esteves è il montatore di Pablo Trapero. Quindi che un certo ritmo è garantito da questo punto di vista, È un film poi, tra l'altro, che in Argentina ha funzionato molto molto bene, e magari alcuni degli ascoltatori avranno il ragazzo, no? Che è la sua prima interpretazione, ma quello che è la guardia giurata è Germán da Silva, che tanti ascoltatori avranno già visto sicuramente nel cinema argentino, Storie pazzesche, Soy el estudiante, tanti altri film, quindi una faccia abbastanza nota. Senti, invece di Santiago Esteves, oltre che montatore, cosa sappiamo di altro di lui? Guarda, con questo film ha vinto proprio a San Sebastián il premio Cine in Construcción. Lui adesso sta preparando un nuovo film, sta in fase di scrittura, perché con questo film ha girato parecchio il mondo, quindi è stato abbastanza impegnato in giro. E lui ha questo, grande talento, secondo noi, appunto, gli esordi, si sa che in Sud America sono sempre molto sorprendenti, no? Il cinema argentino, per esempio, aveva dimostrato durante tanti anni grande, grande vitalità. Adesso era un paio d'anni, 3 anni, che magari il cinema cileno aveva preso un po' più di forza, e che recentemente il cinema argentino si è riposizionato di nuovo nei circuiti internazionali. E Santiago, gli auguriamo il meglio, e per questo, noi come Exit Media, che scommettiamo molto spesso sulle opere prime, sui nuovi autori, che poi adesso, sono già al terzo o quarto film e sono ben famosi, il caso di Santiago Mitre, per esempio, no? E è una bella scommessa. Sì, si sentirà parlare di Santiago Esteves. Che tipo di distribuzione sarà? Guarda, intanto usciamo appunto 4 aprile con 14 copie sulle grandi città, un bel piazzamento sulla parte del Triveneto. Insomma, a Roma ci sono due sale, quattro fontane e il nuovo Cinema Aquila. Il film esce doppiato, ma noi, come anche ispanofili, consigliamo le versioni originali sempre, che dove va apprezzato, meglio il lavoro, non solo del film, del suono, ma anche degli attori, no? Speriamo, che se il film prende corpo, come c'è stato un bel passaparola fino adesso, con le anteprime che abbiamo fatto, possa, aumentare copie la seconda settimana. Insomma, vediamo, sì, speriamo tanto bene. Penso che è un film che parla di tante cose, belle. c'è questo codice del genere, del thriller, no? Che è molto riconoscibile, c'è tutto questo sfondo, non so se immagino alcuni visitatori, alcuni sono stati visitatori delle Ande, e Santiago Esteves riesce proprio a dargli anche un'aria western a questo paesaggio, quindi c'è un bel mischione, diciamo. E allora ricordiamo l'uscita in sala del film L'educazione di Rei di Santiago Esteves al cinema da giovedì 4 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento a Iris Martin Peralta di Exit Media Distribuzione. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Tre pici, gracias a todos.